So you wanna be a rap superstar and live large, big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. Black to the white, come Michael Jackson o black in the white. Con la mazza da baseball, come Conti Bene One Two, ma non ti sento. Ed è black on the light, ed il mic resta spento. Universale, life is now. Vendo gocce d'inchiostro a 14 pounds. Più coltivatori di skunk e meno boy scout. Lil Bow Wow, yuppiau, yuppiau, ciao. Se poi ti perdi follumi come in Gillette, maschera di cera ingiallita dall'Artec. Non è cosa, PG Point come cronaca rosa. Nah, non si fotte con la roba in cellulosa. E punto a capo, se punto a fare il capo. Punto a capo, un punto a casa nel tuo caso. Puntavo a fare un caso, da notte come un vaso. Di notte porto a casa e scrivo testi mentre braso. Ma wait, relax, incido sopra il domo pack. Tax, over tassa cacofonica. Metro, notte, metro, pizza al metro. Mentre il pizza io la stento in pasta al pizzo. Per la testa mozzata del tuo puledro. E mo ti spiego, ad ogni colpo inferto corrisponde una boccata d'ossigeno mentre annego. Come il gioco del bicchiere mezzo pieno, arrivo col veleno. Lo svuoto, lo riempio e me ne vado con il grano. Your big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly to be a rap superstar and live large. Your big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly. A me non frega, friggi sulla schiena, prega sotto l'olio che ribolle, ribelle dentro la scena. Scimmia, scimmiotta, chi scimmia per la sciocchezzuola. Scendi per la musica, vai alla muffa sulla museruola. La creatività una stagnola bucarellata, stagna e buta, la bocca è serrata e un sordo muta. Solida parete alzata ad assaporare la quiete di Buddha, giusto il tempo di una fumata. Fiume, con la facoltà di fuggirci tra le rovine come piume col vento delle scogliere. Muore all'imbrunire come raggi di sole in mezzo alla siepe. Voi rugiada al sole estivo, ma quanti ne rimarrete in equilibrio precario. Un topolino corre sopra le grondaie, perché che tenta ad arrivare prima o poi cade. Inevitabile, lasciando che il resto parli e lasciando che tutto taccia. Il cuore nascosto dagli altri si perde e non lascia traccia. Il boom di un sabbatico non si avvicina all'attimo di vita. Basta, prendila come triangolo idoneo di regole da trasgredire. Prendila come preambola all'embolo cardico delle tue rime. Collassino le fiabe con le principesse, le sue rane. Renditi buono con l'anima e bacia le serpi che ballano nude. So you wanna be a rap superstar and live large. A big house, five cars, you're in charge. Coming up with the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly to be a rap superstar and live large. A big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly. Rev star che cerca fama, tu lo sai che cos'è un dramma. E come grida la notte quando ti chiama. Come ravvedersi che nessuno ti ama. E che sali su monti di lava del Fujiyama. Appendi al chiodo tutti i tuoi microfoni. Questa vita chiude anche più forti come dentro le termopili. Salta gli stereotipi, stereotipi da starre. Quando tutto finisce un alcolizzato da bar. Vita grama, ti mancherà la grana. Sare i riflettori come sotto i lampioni sta una puttana. È una storia bianca e nera del cazzo come la dama. Trema che la trama e te tre trama. Tipo topi di madama alle tue spalle non li vedi. È una questione di incastrare le pedine come a Tetris. Perché per navigare bisogna evitare le reti. Successa dei segreti, segreti sono dei preti. Quindi lancio la mia sfera di cristallo, poi ti taglio con i vetri. Tra le grinfe del dio Set, tra agnelli che son lupi, tra angeli che planano e saranno dei caduti. Show must go, e tu sei agli ultimi saluti. I primi restan primi se gli ultimi restan muti. E ci vuol poco a trasformare gli applausi in sonori sputi. Se ami l'obbedienza quando parlo non discuti. So you wanna be a rap superstar and live large. A big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly to be a rap superstar and live large. A big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly.